Radio 24 Reportage. Tra i migranti al Brennero, lungo il confine angusto dell'Europa, di Raffaella Calandra. Tra le montagne del Brennero l'unico blindato resta quello del nostro esercito. Alla rotonda che segna il confine tra Italia e Austria, i soldati in mimetica da tempo ormai presidiano un passaggio che in quest'estate di rinnovate polemiche e discussioni internazionali in realtà continua ad essere attraversato solo da camion, auto di turisti e comitive di ciclisti. Al di là dei vecchi posti di blocco, gli annunciati carri armati anti-migranti non arrivano. Si ferma infatti dietro un cancello alle porte di Innsbruck, l'ultima provocazione dell'Austria. Si ferma dentro la caserma di Kranebitten, dove restano parcheggiati i quattro blindati che Vienna aveva annunciato di voler schierare insieme all'esercito, salvo poi fare marcia indietro proprio come un anno e mezzo fa sull'ipotetica costruzione di un muro. Resta però impigliata tra il centro commerciale, la stazione presidiata da forze dell'ordine e la lunghissima via San Valentino che taglia questo manipolo di case, resta come impigliata una tensione latente. La percepisci sulle banchine della stazione dove i militari salgono a bordo dei treni internazionali in cerca di migranti irregolari. Eindeutig weniger durch die Kontrollen. Sono diventati sempre di meno negli ultimi mesi, ci racconta il barista del convoglio che da Verona corre fino a Monaco. Sono finiti infatti i giorni in cui le carrozze erano affollate di siriani, soprattutto diretti verso la Germania e il cuore dell'Europa. Ora ne arrivano molti di meno e molti non capiscono perché vengono fermati, ci racconta Zenib, referente dell'associazione Voluntarius che qui dà supporto ai migranti. Treni in uscita, treni in entrata, i controlli normali, insomma non si è ancora visto niente di particolare. In media ogni giorno quanti ne arrivano? Dipende dalle giornate, ci sono giornate tranquille, 4, 5, 6 persone e certe serate anche 10, anche 15. Tutte persone che vengono fermate al momento del controllo dei documenti sul treno? Sì, la maggior parte sì, o sono persone che vengono rimandati dall'Austria. Provano a superare questo confine senza essere identificati. Ecco, sì, ma è molto difficile. Ha un confine molto serrato, ecco. Tanti di loro, precisamente le famiglie che vengono dalla Siria, dell'Iraq, dicono noi abbiamo il diritto di andare anche in Germania, ma non si può, insomma. Usano anche i pullman per esempio Flixbus o qualche altra cosa, ma vengono fermati. Ci sono però anche delle persone che provano comunque ad attraversare il confine a piedi. La settimana scorsa sono dovuta andare al commissariato perché parlo arabo, delle persone che hanno fatto una camminata lunghissima da qua fino, insomma, in Austria e sono state riportate indietro. A piedi attraverso le montagne? Sicuramente, sì. Dalla polizia austriaca sono state riportate indietro, sono riportate al commissariato italiano per l'identificazione. Sono ritornate con dei piedi gonfi e... molta disillusione. Sì, ecco, quella sì. Il fallimento è stato un po' sicuramente molto più doloroso del dolore carnale, ecco. Sì. Ora non si passa più da questo confine e non servono i carri armati giustificati da Vienna come pianificazione in caso di emergenza per scoraggiare le partenze. Nel passaparola di chi è in viaggio è ben chiaro infatti che ora questo varco è diventato sempre più angusto, ma alcuni ci provano comunque e vengono fermati e poi trattenuti qui al Brennero o mandati a Bolzano prima che la loro posizione venga valutata. Così è in una palazzina gialla, poco lontana dalla stazione, che si ferma chi aspetta di conoscere il proprio destino. Un argentino identico a Maradona che fa da guardiano ci racconta che ora sono 22 gli ospiti. 22 c'è qua Brennero, niente problem, tutti tranquillo, sempre mangiare, anche dormire. 22 persone sono qui da quanto tempo più o meno? 2 mesi. Oggi anche 2 o 3 famiglie c'è qua. No Germania, no Austria, niente. Solo la polizia prende, vai a Balzano, non entrare a Brennero. E da dove arrivano? C'è africano, c'è pakistano, c'è Nigeria, Mali, tutti. Brennero, I'm living 2 months. In Italia, I'm living in 1 year. Da 2 mesi sono ferme qui, tra le montagne del Brennero, queste 2 giovani donne somale, uscite per fare un po' di spesa e una piccola passeggiata. Sono arrivate in Italia a Crotone, soccorse in mare con il loro barcone e poi in pullman hanno attraversato tutta la penisola. Altri invece al massimo si affacciano alla finestra, non vogliono uscire per le strade per una paura che non sanno definire ma che evidentemente sentono distinta. Nei loro confronti, in realtà, al chiosco dove si rosolano bratwurst e patatine fritte, il sentimento prevalente è di indifferenza e il termometro delle tensioni politiche gli abitanti lo percepiscono più che altro dal numero di inviati e telecamere. Dalla televisione e dai giornali. Perché noi non vediamo niente di questa gente. Li vediamo forse qualcuno che passa, ma in un giorno forse vediamo due persone. Infatti in questo momento sono 22 gli ospiti del centro d'accoglienza qui in via San Valentino, per cui per voi non esiste alcun tipo di emergenza? Nessunissima emergenza, niente. Anzi, quando io ascolto la televisione mi arrabbio, perché penso, ma dov'è questa roba, questo caos che stanno facendo e dicendo? Quello che raccontano loro, la percentuale che hanno loro, è molto superiore a quella che noi abbiamo in Italia. Condividete anche l'idea di misure un po' più di chiudere i confini? Certamente io sì, perché vivendo già nella mia situazione, nella mia casa, che vedo che in una casa di 4 appartamenti abbiamo 3 appartamenti con extracomunitari, io sono l'unica nella casa, nel mio piccolo, figurarsi poi in tutto il resto. Basta dappertutto, basta in tutta Italia, basta in Austria, basta in Germania, io parlo con i tedeschi e anche loro dicono che basta, che ne hanno tutti troppi di questa gente. Arrivano via mare e non possiamo sparare sulle navi, dobbiamo per forza, ma devono trovare loro un sistema di fermarle prima che arrivino in Italia. Ma i suoi clienti anche austriaci, no, che qui vengono, qualcuno le avrà detto che queste comunque, avrà pensato che queste sono comunque anche proposte che si fanno in una chiave elettorale, perché comunque tra pochi mesi in Austria si vota di nuovo? Sì, anche questo l'ho letto dal giornale. Tallinn, Amburgo e i vari vertici internazionali sono lontani da queste montagne, ma l'eco arriva comunque. Dall'altra parte del confine, a Grisambren, un gruppo di austriaci seduti davanti ad una birra nell'unica piazzetta di ritrovo si interrogano sui controlli sempre più serrati, le restrizioni sempre maggiori, eppure sull'ultima provocazione dei carri armati che ha tanto il sapore di campagna elettorale in vista del voto di ottobre. Noi abbiamo paura, in Libia ormai c'è di tutto, ci racconta un signore, anche molti terroristi, e noi abbiamo paura che arrivino qui insieme ai migranti. Li vogliamo pure aiutare, ammette, spesso diamo loro acqua e da mangiare se li troviamo, ma sui controlli no, sono d'accordo, sono ormai troppi e dobbiamo difenderci, sentenzia, senza possibilità di replica. Eppure le conoscono bene anche le storie di integrazione. Alle loro spalle, in una distinta casetta, abita infatti una famiglia di siriani. Salah e la moglie sono arrivati qui più di 3 anni fa, all'inizio della crisi, nel loro paese, e ora, con un misto di tedesco e inglese, sintetizza perfettamente la situazione attuale dell'Austria e forse dell'intera Europa. Ora abbiamo in Austria molti rifugiati. 3 anni e mezzo, da quando sono arrivato io eravamo di meno, ma ora effettivamente sono tanti in rapporto alla popolazione. E allora penso che gli austriaci abbiano in un certo senso ragione a rispedire indietro alcuni migranti, ma non tutti. Alcuni arrivano qua per esigenze economiche, non per problemi. Non possono rispedire siriani, iracheni, afghani, che come me chiedono asilo politico. Io sono arrivato dalla Turchia, e poi la Grecia, quindi Albania, Macedonia, Serbia, Ungheria e quindi Austria. Dall'Ungheria o dalla Serbia l'Austria è il primo paese europeo, per cui tutti vengono qui alla fine. Quanto a me, almeno sul passaggio, sono stato più fortunato di quelli che ci provano ora. Ora la polizia controlla tutto, treni, pullman, eppure tra i monti. Ora è molto difficile entrare. Lui ora ha un lavoro in un negozio qui in Austria, ha i documenti a posto e anche ha appena allargato la famiglia con la nascita di una bimba. Ma se guarda le montagne dall'altra parte del confine, sa che ora per tutti gli altri, anche come lui, quel valico è diventato sempre più stretto, anche senza l'arrivo dei carri armati. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.